Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Oggi magazine con diversi appuntamenti, intanto questa partenza anticipata per permetterci di dare uno spazio più completo agli articoli, alle suggestioni e suggerimenti che ci portano gli inserti usciti durante il weekend. Come di consueto anche consiglio e raccomando una lettura, scegliete i vostri magazine perché a differenza dei quotidiani che portano notizie il più delle volte, sto parlando di una proposta di lettura con modalità mordi e fuggi, con titoli accattivanti e poi contenuti magari più stretti e striminziti, i magazine hanno un concetto più completo di informazione e diffusione. Tra l'altro il riportare attenzione anche a personaggi che ho seguito, che ho letto, che ho amato e tuttora amo, ci mancherebbe, ma che purtroppo non hanno ancora quel podio e quella diffusione che meritano. Vi sto parlando di una Polide, anche se di nascita è russo, esattamente 1920, quindi anche se di nascita ucraino, allora Unione Sovietica. Paul Celan è un pittore, scusate, è un poeta, ci mancherebbe. Tra l'altro anche ha avuto divagazioni artistiche in ambito di arte figurativa. Lui in difficoltà da subito, sofferente di disturbi mentali, si toglie la vita a Parigi nel 1970, si butta, si affoga nella Senna. Lui, come vi ho detto, colpito da questi disturbi, ha una fatica molto importante nel capire la sua provenienza, nel capire la sua personalità. Ha una storia d'amore bellissima, seppur breve e ovviamente travagliata. Si incontreranno e staranno da soli unicamente per questi 5 giorni con Ingmar Bachmann, altra scrittrice e poetessa molto talentuosa e nello stesso tempo con una vita molto travagliata. Beh, per quanto riguarda la sua vita, sia della Bachmann che dello stesso Paul Celan, scampato al l'olocausto, sofferente di disturbi mentali, con delle difficoltà sin da ragazzo, si appassiona a Goethe, a Rilke, si appassiona anche alla lettura in generale di grandissimi classici da Kafka, Shakespeare, Nietzsche. Insomma, ha una visione molto importante di quella che è la radice, che a lui purtroppo viene privata, viene per così dire tenuta dal destino assolutamente a parte. Quindi ha girato in maniera molto importante tutte le capitali, tutto il mondo, ha ricercato per ritrovarsi con Ingmar Bachmann, da cui un carteggio di lettere pubblicato da Neri Pozza, Ci raccontiamo l'oscuro, un libro veramente molto bello. Arriva un articolo a tale proposito a pagina 5 della Domenica del Sole 24 Ore, il Paul Celan che Zanzotto rifiutò. Andrea Zanzotto è stato un poeta, intellettuale, partigiano, letterato, che ha dato veramente con il suo lirismo, con una parte molto intensa di poesia anche per quanto riguarda la nostra penisola, una figura che è decisamente un intellettuale anche concreto, ma che mantiene quel lirismo che piace a me, che dà la forza alla poesia per essere e diventare qualcosa di assolutamente tangibile, come del resto deve essere e come lo è la poesia. Mi viene in mente dall'articolo a pagina 5, fra l'altro, che ha un titolo abbastanza strano, il Paul Celan che Zanzotto rifiutò. Pensate che io da nottetempo, una volta passeggiando in libreria, trovai in questa libreria le poesie sparse pubblicate in vita con un saggio di Andrea Zanzotto, quindi non una traduzione ma un saggio riportato da questo intellettuale che rifiutò. perché lo rifiutò, non certamente per motivi di contenuto, di ispirazione o quant'altro, o per un aspetto contrario a tutto ciò, ma abbandonò la traduzione per la paura di venirne influenzato. Ora queste poesie tornano in versione rinnovata. Quanto sia difficile poi tradurre la poesia, eh? Poesie semplicemente pubblica l'Orma con traduzioni diverse da Vittorio Tamaro, da Moshe Khan a Marcella Bagnasco, con testi di commento e allegati a queste scritture preziose. La pubblicazione è l'Orma, il Polcelan che viene riscoperto, ritrovato, e tutti quei lavori che non sono stati riportati dal poeta Zanzotto in Italia perché appunto timoroso di esserne troppo influenzato. Del resto Celan ha un'intensità molto molto forte per quanto riguarda non solamente un aspetto lirico, poetico, aulico, no no, tutt'altro. Certo, non manca, ma quello che dà la forza è questa manifestazione costante di disagio per quanto riguarda la ricerca delle proprie origini. Verde grigia, libera, in poco spazio. Lune tonde roventi illuminano il pezzetto di mondo. Questo eri dunque, anche. Nei vuoti di memoria stanno i ceri sovrani e assegnano potere. Today, yeah, yeah, yeah. Perhaps we're on our way, perhaps we've gone too far. Perhaps we should slow down to be where we really are, really are, yeah. Paul Celan ha la forza, lui ha una grandissima forza come questa pietra compressa, seppur in poco spazio, ha una visione diversa, ha un disordine ordinatissimo. S- Saluto i ragazzi della confraternita dell'Uva, perché entrando in questa libreria, parlo di anni fa, trovai un libello. Questo libello è spregiativo, quindi trovai questo libricino, ecco, così è più attinente, di Paul Celan, Poesie sparse pubblicate in vita, con un saggio di Andrea Zanzotto, con la Domenica del Sole 24 Ore. Non sapevo che Zanzotto in generale rifiutò queste poesie. Nel saggio, che tra l'altro riporta in questa breve pubblicazione, ne ha parole di elogio veramente importanti. Aveva paura che tutto ciò potesse influenzare la sua narrazione poetica. La pubblicazione in questo caso è Notte Tempo. Ho un altro lavoro, Notte Tempo, con Inger Bachmann. L'amore, l'unico amore di Paul Celan, anche quello un lavoro molto molto bello. E poi la pubblicazione Ci diciamo l'oscuro, per Neri Pozza, che io consiglio, anzi obbligo assolutamente. Pubblicità, sono quasi le 8, torniamo in diretta ricordando che l'aspetto letterario dei magazine non finisce qui, e ritorneremo per parlare di un aspetto sacro e la nostra psiche, ok? A tra poco, quindi, con i magazine di Radio Città Fujiko. Paul Celan con Poesie sparse pubblicate in vita, più il saggio di Andrea Zanzotto. Non metto in palio questo perché ne sono troppo geloso, però per voi ho una pubblicazione appena uscita, e tra poco svelerò anche il protagonista, che probabilmente avremo in diretta telefonica. Quiz facilissimo, tra l'altro, quindi è più una questione di velocità nella risposta. Sarà verso le 8.30 l'intervista, e verso le 8.40 avremo il quiz, e immediatamente avremo una vincitrice o un vincitore, ne sono certo. Note di Metamatics, questa glitch ambient elettro che porta il commento all'articolo di pagina 14 sull'inserto della Stampa al sabato, tutto libri. Questa settimana è ricchissimo. Rip- porta l'attenzione su un grande psicanalista, uno psichiatra francese, Jacques Lacan, che scompare a Parigi nel settembre dell'81, nasce sempre a Parigi nel 1901, quindi uno studioso su psicanalisi e psichiatria veramente che ha vissuto in toto il Novecento. È una figura importante, anche controversa se vogliamo, all'interno di questo movimento scientifico. È uno delle figure di spicco e insieme ad altri pensatori ha dato veramente un contributo importante a tutto ciò che è percorso di studio della mente umana. La sua teoria molto particolare è l'ascolto tra l'inconscio e il godimento. Il godimento vuol dire che gli esseri umani sono attraversati dalla pulsione, ma la pulsione è muta, parla tramite i significanti. Lacan ha tenuto e tramutato in logica la modalità di funzionamento dell'inconscio. L'inconscio è strutturato come linguaggio, significa che l'inconscio è come una rete che funziona secondo una logica, anche se non è quella dell'io cosciente. In questa rete circola il godimento, che è un aspetto fondamentale, è una combinatoria non solo verbale di elementi discreti, manca di un elemento, quello che potrebbe dargli senso, ed è questo il trauma per ogni essere umano, l'incontro con questo sapere che risulta bucato. Lacan riconosce a Marx di aver intuito meglio di Freud il sintomo analitico con il plus valore che non si sostiene che sulla base del più di godere di qualcuno su qualcun altro, ergo per Lacan, gli oggetti del capitalismo sono tutti fasulli. Ok, qui ci rifacciamo anche all'arte di Malevich con la vittoria sul sole ripreso in quadrato nero su sfondo bianco. Insomma, quindi gli oggetti del capitalismo nel modo di rappresentare anche un riferimento al godimento sono esattamente fasulli. E dopo aver parlato con questa introduzione, come riportare tutto ciò anche a un aspetto sacro, così lontano e così vicino. Gesù e psiche, la legge è desiderio. Sulle orme di François Dolto, l'ultimo saggio di Recalcati esplora e analizza le radici evangeliche della psicoanalisi. E tra le diverse pagine dei Vangeli che Recalcati analizza c'è una parabola che rappresenta quel tradimento della legge dei desideri rivelato dallo stesso Gesù. È la ben poca parabola, è la ben nota parabola dei talenti. Esattamente, dove la figura del servo che riconsegna al padrone l'unico talento. Ecco, da lui ricevuto l'immagine plastica dell'impotenza del desiderio, cioè seppellire l'unico talento è la manifestazione della paura nei confronti della libertà dell'esistenza. Il servo in questo caso tradisce esattamente se stesso, tradisce nei confronti dell'impresa del desiderio, che sempre ovviamente implica un rischio tra la scelta e l'azione. Ciò che manca in lui è la fede nella forza del desiderio, che consente non solo di generare vita, ma di moltiplicarla, accrescerla, estenderla. Quindi, seppellendo quell'unico talento, quell'unico desiderio, chiamiamolo così, non è che seppellisce in realtà se stesso. E queste sono modalità di letture del Vangelo che François Dolto va a riportare con attenzione in diversi passaggi nelle scritture che hanno un che tra fede e desiderio che sono fondamentali e quante volte sono stati interpretati invece in maniera più di monito, più severo, più, diciamo così, più da castigare. Ecco, la visione e tradotta da Massimo Recalcati con La legge del desiderio, è esattamente una visione opposta. Quindi seppellire tutto ciò che è motivo di crescita vuol dire alla fine seppellire noi stessi. Affidato un talento, una moneta, e lui anche in questa immagine di copertina molto bella per quanto riguarda la presentazione a pagina 15 di Tutto Libri, questa figura va a seppellire quest'unica moneta che gli è stata affidata, mentre invece altri che ne hanno avute anche di più, nonostante tutto ne approfittano per avere motivo di crescita, per avere motivi di sviluppo, e così è. E quando poi c'è da ritrovare il talento, questo oltre che la difficoltà di trovare il talento, perché in fondo ha seppellito se stesso, si ritrova che non ha nulla. Non sto invitando a spendere e spandere, ci mancherebbe, no, è un discorso che è tutto all'interno della nostra testa, diciamo così, come viene riportato da questo saggio La legge del desiderio e Massimo Recalcati. Ecco, magari i Vangeli letti in un certo modo possono dare una visione immediata di questo, mentre invece con Scuola Lacaniana François Adelteau ha voluto portare un altro significato a questa sepoltura del, guarda caso, si chiama talento. Eric Truffaut alla tromba, musicista che tra elettronica e struttura di improvvisazione di modern jazz sa portare queste note molto particolari, allo stesso tempo molto intense, di stagione oserei dire. كل الحد وليه منابة كيف ما نزل الغيث عالمشموم يسكي المطر الشيح والقطابة والصبح يهدي نادو تال الكوم ويهدي الندال القمح وسط الغابة والليل يزرع في سماء نجوم تضوي على البستان والدبدابة Mi soffermo sulla Domenica del Sole 24 ore a pagina 10. Ecco i non greci che fecero la Magna Grecia. Ne stavo parlando anche questo weekend a proposito della Magna Grecia. È interessante questo studio di oggetti che fa scrivere a Massimo Osanna che la civiltà nacque dal fondersi di popoli greci e italici. La Magna Grecia come una trama della bellezza, come a un prezioso ordito su cui hanno tessuto storia, arte, quotidianità, popoli italici che abitavano quelle terre all'arrivo dei greci. Massimo Osanna, direttore generale dei musei, nel suo Mondo Nuovo, Viaggio alle origini della Magna Grecia, riesce a ritrovare tutti i fili di quella tela che era multietnica, ricchissima, che fu la Magna Grecia a partire dall'VIII secolo avanti Cristo, e il suo lavoro di ricerca a confronto delle fonti si presenta come una fotografia degli scambi e delle culture dove si sono intrecciati in quelle terre, tra l'altro bellissime, il nostro meridione. Non ci furono solo greci, anzi i greci diventarono quelli che conosciamo proprio dall'incontro con i popoli italici. Esattamente, l'importanza della Magna Grecia, che fu addirittura più importante per certi aspetti della Grecia stessa, ha avuto questa crescita grazie all'incontro di queste culture ed è diventata a sua volta una delle parti fondamentali per lo sviluppo culturale, per la conoscenza, per l'arte. E questo articolo, da cui troviamo a pagina 10 della Domenica del Sole 24 ore, Mondo Nuovo, Viaggio alle origini della Magna Grecia, lui è Massimo Osanna. Giovedì della prossima primo giovedì di una settimana, il primo e unico ovviamente, no, però sarà il primo giovedì di ottobre, ecco, la partenza ufficiale della programmazione del Jazz Club Il Torrione di Ferrara, che seguiremo con Jazz Live ovviamente questa settimana. Nel giovedì di questa settimana vi sarà nella città estense la presentazione in conferenza stampa, la quale non possiamo assolutamente, anzi con grande piacere saremo presenti per poi dare il via al format di Jazz Live ogni venerdì dalle 11.30 alle 12.30. Thank you. Intanto che ascoltiamo questo disco, questo brano di Joy Barron alla batteria, Arthur Blythe al sassofono contralto, Ron Carter al contrabbasso, Bill Frisella alla chitarra, un vero All-Star Game, questo lavoro che viene riportato dal titolo We'll Soon Find Out. Allora, alle 8:30, anticiperò un pochettino la pubblicità, saremo in diretta telefonica con Enrico Brizzi, ricordate ovviamente, sì, con il suo lavoro che è stato motivo anche di grande attenzione, giustamente, per quanto riguarda una pubblicazione importante, e ritorna questo lavoro dopo 30 anni, Jack Frusciante è uscito dal gruppo, ritorna con un titolo, semplicemente il titolo è 2, con questa copertina riportata da Harper & Collins, con questi due giovani ragazzi. Non lasciatevi trarre in inganno dallo spazio di pubblicazione, perché ne approfondiremo i contenuti poi con l'autore di questo seguito, con Enrico Brizzi, a proposito di tutto ciò. Ricordando che martedì 24 settembre, cioè domani alle ore 18 in Sala Borsa, vi sarà la presentazione di due Enrico Brizzi, quello che da Jack Frusciante è uscito dal gruppo a distanza di anni, ritorna, ma attenzione, non, come ho detto, e ovviamente non svelo in anticipo, ma non lasciatevi trarre in inganno da questo sbalzo di tempo per quanto riguarda i due protagonisti di cui parleremo a breve. Intanto la musica ci acconsente di portarci allo stacco pubblicitario, la musica sarà con un brano di Emiliana Torrini. Perché? Perché a pagina 49, dalla lettura del Corriere della Sera, ritroviamo la musicista italo-islandese, per metà partenopea e per metà nordica, la cantautrice Emiliana Torrini, arrivata al successo anche grazie al Signore degli Anelli per Le Due Torri, ha pubblicato Miss Flower, che porta a Reggio Emilia, canto l'avventura di una donna straordinaria, spunta un fiore nella soffitta islandese. Palcoscenici, a pagina 49, la protagonista Emiliana Torrini. Intanto, da un lavoro da lei pubblicato, vi propongo lo stacco che ci accompagna la pubblicità prima della diretta telefonica che vi ho preannunciato, questo brano Fireheads, per un po' di buona musica e per tornare nuovamente con i magazine di Radio Città Fujiko. A tra poco. Say we wasted time. In my view, we just used it all up. It's not fair to say we wasted time. In my view, we just used it all up. What hurts you hurts me too. I find it hard to make right. I know I've been a pain lately, that I failed in every test or I did wrong. Thank you. are lost and can't be seen. There's a hard wind blowing down our house. Once that's gone, it can't be found. Abbiamo anticipato la pubblicità, abbiamo una diretta telefonica importante in occasione di una presentazione che sarà domani in Sala Borsa alle ore 18. Arriva due, Enrico Brizzi, 30 anni dopo, Enrico Brizzi dal 1992, Alex e Heidi si ritroveranno, si rivedranno per meglio dire, ma non cadete, come ho detto, in questo inganno spazio-temporale. Intanto non perdo tempo e do il buongiorno ad Enrico Brizzi, buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Allora, c'è uno spazio di tempo e arriva dopo diversi anni questo lavoro, dopo Jack Frusciante è uscito dal gruppo, i protagonisti Alex e Adelaide si rivedranno, ma la prima domanda è: si riconosceranno? Avranno modo di, non solo così fisicamente, ma anche in sé come personaggi? Guarda, sostanzialmente tutto il libro ha a che fare con questa domanda. Abbiamo lasciato questi due ragazzi che hanno appena imparato a volersi bene e si devono separare. La fine di Jack Frusciante è proprio il momento in cui il loro ultimo abbraccio, il loro ultimo bacio, il loro ultimo saluto. E guarda, due riprende esattamente da quel punto, riprende tipo: ascoltate gente, lasciatevi invadere dalla musica, che la nostra canzone suona ancora per noi e per tutti. Nel tardo giugno dell'anno domini 1992 il vecchio Alex non filava più come il vento, anzi era ridotto in ruina, e quali eventi lo condussero al devasto, i più svegli della cucciolata lo avranno già intuito. C'entrava una ragazza, diversa da tutte le altre, ogni cosa che lei faceva era magica, ogni cosa che lei faceva mi faceva sentire vivace ed elettrico, come se la primavera all'improvviso fosse arrangiata per piano, sintetizzatore e steel drums caraibici. Insomma, è la storia di, dopo essersi innamorati per la prima volta, cosa succede quando ci si deve separare. La domanda che tu mi hai fatto è la stessa domanda che si fanno loro per tutto il tempo: quando ci rivedremo, ci riconosceremo? Sì, perché tanto poco tempo che passa può cambiare tutto, può non cambiare niente. Quello che cambia è magari ripreso in parole, sensazioni, suoni, e il percorso tra i due, il titolo appunto Due nell'immediato, ma da una copertina che dà una spiegazione per il romanzo di Enrico Brizzi edito da Harper & Collins, che è veramente un complemento perfetto, aggiungo, al lavoro che viene portato. Perché tutto ciò ha avuto, secondo te, così una grande fascinazione per un pubblico di tutte le età, anche di tutti gli appetiti letterari, Enrico? Guarda, non lo so, so soltanto che è un libro che è uscito in 200 copie per un piccolo editore indipendente, Transeuropa, valoroso ma noto agli addetti ai lavori, non al grande pubblico, e poi è esploso nello spazio di tra l'estate del 94 quando è uscito e la primavera successiva. Sono successe cose incredibili una dietro l'altra, tra cui fare un sacco di presentazioni canzoni che vabbè, tecnicamente si chiamano reading, ma di fatto sono una specie di racconto di cantastorie, cioè mi piace raccontare questa storia con amici musicisti, come ho fatto l'altra sera al Locomotive, come sto facendo in giro per l'Italia in questi giorni. Vi sto parlando da Pordenone, dove si è appena chiuso il festival, sì. Pordenone Legge, e sarò di nuovo qui la settimana prossima per fare per l'appunto lo spettacolo con The Perfect Cousins, gli amici Hugh Guerra, Tony Farinelli e JJ Valentine. E quando ti dico questo, perché quando fai lo spettacolo dal vivo ti rendi conto, nel momento in cui le luci lo consentono, di vedere in faccia le persone. L'altra sera ci sono stati dei momenti in cui, non lo so, vedi le persone commosse quando si parla di l'ultimo saluto che Martino, l'amico di Alex, gli manda prima di, sì, prima di suicidarsi, vedi le persone emozionate quando c'è il primo appuntamento tra Alex e Heidi, per cui non lo so spiegare in maniera sociologica, però penso che le persone abbiano riconosciuto dei sentimenti autentici in questa storia. E da qui è arrivata anche la sensazione di portare un semplice 2, ma ovviamente con quello che abbiamo descritto finora non è semplicemente un numero, Enrico. Ma 2 non è solo un numero in questo caso, perché sono due voci, sono due persone che hanno appena capito che da soli sono solo metà di qualcos'altro, perché ormai sono diventati due persone che si cercano, e sì, a quell'età, 17-18 anni, stare separati un anno, come dire, stare separati mezza vita, è un tempo lunghissimo che si trovano davanti. Lei è in un mondo nuovo, letteralmente nel nuovo mondo, si trova in America ed è da sola, non conosce ancora nessuno, non ha idea della vita da quelle parti, si deve confrontare con una cultura diversa, pensa ad andare nel paese dei Nirvana ed è invece una provincia pennsylvaniese, se si può dire così, bella, cruda e anche abbastanza ignorante per certi versi. E lui invece rimane a Bolo, ma la città è cambiata in maniera radicale, perché manca lei, quindi vede la città che gli conosce da sempre. È una visione completamente diversa della città. È desertificata dall'assenza di lei, sì. E allora, senza svelare, intanto abbiamo già detto che lo spazio che c'è stato di pubblicazione è più ampio rispetto allo spazio di narrazione per quanto riguarda 2, ma volevo aggiungere anche una cosa, anche qui senza, chi è la voce narrante di tutto ciò? Perché questo è un altro aspetto che mi ha, come si può dire, rapito, incuriosito, ecco, più preciso, non puoi dirlo, non lo voglio sapere, però c'è questa voce narrante che mi ha preso tantissimo. Ci puoi dire un attimo qualcosina? Certo, senza dire, no, guarda, troppo? Io dico quello che so, no? Okay. non voglio diciamo tenere cose nascoste. Il punto è questo, guarda, molto terra terra. Io ho letto per la prima volta Jack Frusciante uscito dal gruppo nell'autunno dell'anno scorso, un anno fa circa, e letto dall'inizio alla fine, intendo dire, poi letture, sì, pubbliche, sì, certo, eccetera, parziali, fatte mille volte, però per la prima volta, e il cielo sa perché, ho sentito l'urgenza di leggere quel libro, come si legge il libro di un altro, con molti timori anche, del tipo se mi fa schifo e se mi metto, certo, a fare auto-editing tutto il tempo invece di godermi il flusso della lettura, sto lì con la matita a fare appunti e se mi viene nostalgia, sai, un sacco di pensieri così molto intellettualistici alla fine o dettati da paranoia. E poi invece è stato tutto molto bello e naturale, nel senso che ho letto il libro in un giorno e è stato come ritrovare, io penso, per un chitarrista che ha 30 anni di attività alle spalle e negli anni ha messo nella sua sala prove a varie chitarre, in sostanza, e non aveva mai tirato fuori dalla custodia la sua prima chitarra, e se la mette a tracolla e il suono è esattamente quello, lo riconosci all'istante. Certo. E quello che è successo è che ho letto il libro, l'ho richiuso, ho aperto il computer e mi sono messo a scrivere come proseguiva la storia, secondo me. Okay, e cioè, una cosa che mi hanno chiesto di fare tante volte, non ho mai voluto fare per 29 anni, e poi all'improvviso è diventata la cosa più naturale e urgente del mondo da fare. E all'inizio ero anche così un po', cioè, fomentato, ma anche un po' vergognoso, cioè non ho avuto il coraggio di dirlo subito. Ne ho parlato con Sara, la donna che amo, ne ho parlato con le mie figlie, ma anche solo per dirlo ai miei agenti o al mio editore ci ho messo un po', perché dico no, vabbè, magari è una fiammata, per qualche giorno sto dentro questo flusso, poi in realtà non so, tra una settimana mi è scesa, e invece niente, insomma. E invece è andata avanti, assolutamente, e quindi arriverà in Sala Borsa alle ore 18 domani, martedì 24 settembre, sarà in presentazione con Letizia Gamberini per quanto riguarda il 2 che stiamo anticipando qui grazie alla disponibilità dell'autore Enrico Brizzi per i magazine di Radio Città Fujiko. Allora, a questo punto io concludo con un brano musicale che non voglio dire qual è perché lo devono indovinare ascoltatrici e ascoltatori al 333-180-9494, ma ovviamente anche la musica, beh, neanche a dirlo, ha una grandissima importanza in tutto ciò, Enrico. Beh sì, ha una grandissima importanza, vabbè, personalmente nella mia vita, c'è la mia scrittura, perché ascolto musica scrivendo, ma ha importanza proprio nella scrittura in sé, cioè la scrittura non è solo grammatica o costruzione strutturale della narrazione, per quanto mi riguarda è tanto anche ritmo e musicalità, e a per questo, cui sì, sarebbe impossibile non tenerla presente. Si nota, per adoperare un termine che possiamo adottare sia in maniera letteraria che in maniera musicale, si nota, e come. Io ti ringrazio tantissimo per questa breve grazie a voi, che c'è bisogno di voci libere in questo mondo. Sì, grazie dell'incoraggiamento, ci siamo sempre e comunque. A presto, domani alle ore 18 in Sala Borsa. Enrico, buona giornata. Ciao. Buona giornata, ciao. Ciao. Please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us. È nella colonna sonora letteraria del lavoro di Enrico Brizzi 2, edizione Harper & Collins. A me, pronti via, velocemente, basta sapere chi è questo gruppo, chi sono, chi è che sta interpretando questo brano, tipicamente anni 80. Nonostante siano anni 80, ammetto che a me loro piacevano tantissimo. Take me out tonight. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me. I haven't got one, oh, I haven't got one. Ma sei Jarno da Calderara che ha scritto subito in maniera talmente frettolosa che ha dimenticato una S, ma si è corretto immediatamente. De Smith, mi mancava una S, sei arrivato puntualissimo. Un buongiorno a tutti, buongiorno a te. Il lavoro Enrico Brizzi 2 è a tua disposizione già da oggi pomeriggio alla libreria Ubic di Via Ernerio 27 a Bologna. So confused, I'm under the illusion that I have to choose. I love you, always know the way. The way back home always is the same. Oh, make some big jumps, you afraid to break some bones. Come on, make some big jumps. Arriva seconda. E per lo stesso motivo però mi permetto, dalla velocità The Smith, i miei preferiti, poi Smith. Ok, grazie Paola. Tick tock, this clockwork will stop. You're the key for winding up my heart. Brick brack, if you don't wind me up, the sky will lie upon me like a passed out drunk. Without you I would never rise again. Andate a ritirare i libri alla Ubic, mi raccomando. Intanto grazie a Jarno, scritto semplicemente da Calderara. Magari se mi confermi, l'ascoltatore Jarno è molto presente, è nel podio dei 103.1 per quanto riguarda le vincite. Organizzeremo a breve anche un motivo di book crossing tra i vincitori, esattamente Jarno, grazie, una buona giornata, una possibilità di book crossing grazie anche al binario 69, la partecipazione di librerie indipendenti anticiperà il concerto accompagnato da presentazioni letterarie. Avremo il Voltiamo Pagina Radio Città Fuji con la musica del binario, tanti libri da condividere con voi ascoltatrici e ascoltatori del Breakfast Club dei 103.1. Ale, andiamo verso la conclusione. Ricordo che a breve avremo l'Edipea Enciclopedico, prima puntata 2024-2025. I magazine ritornano domani, avremo un last minute nuovamente con presentazione letteraria, oltre che ovviamente il Moved Groove. Vediamo se con altri suoni è l'uscita dell'ultimo lavoro dei Galliano. Mi piacerebbe tantissimo. Ritorna l'Edipeo Enciclopedico, Roberto Raspadori e Piero Di Domenico a breve avranno la linea. A seguire ci sarà Liberi Dentro, la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, e poi i ragazzi di Caffè e Paglia. Per la prima colazione in diretta vi aspetto puntuali domani alle ore 7. Quindi una buona giornata, un buon inizio settimana dal vostro William Piana. Mi congedo a voi con un caloroso abbraccio. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani.